Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro è una stella ubriaca. Che sta perdolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, con un filo di voce, parla coi telegiornali e dice un sacco di cose. Ci fai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andare, per favore rimani. Balla, balla, figlia del sole, figlia del sole. Canta, canta, non ti fermare, non ti fermare. Su un veliero ho negli occhi la ragazza del futuro. Eri tu che volevi tornare indietro. Ragazza del futuro, sei persa in una strada. Hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata. Sali sulle scale mobili di un aeroporto, cammina sopra il pavimento instabile del mondo. E non aver paura, è solo un altro giorno qui, dammi le mani. Del futuro eri tu che volevi tornare indietro. Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro forse l'ha trovata. Mentre voli sull'aria.